all the risks we have taken. Dance with me, dance with me into the colors of the dust. When you have awoken from all the dreams broken, come and dance with me. Dance with me into the colors of the dust. Dance with me into the colors of the dust. The paths we're walking on, they crumble behind us. But we leave now. They will never find us. If this crazy world spins itself down dust, I wanna be with you. I'm gonna be with you in the color. When you again start hoping with your arms wide open, come on, dance with me. Dance with me into the colors of the dusk, and all will be right. We'll be right, dancing like water with the light. Oh, dance with me. Won't you dance with me into the colors of the dusk? Colors of the dusk. Dance with me to the colors of the dusk. Allo, a passerottini e passerottine care, ben ritrovati qui all'Early Bird Special, tutte le mattine, dalle 6 alle 7, questa è la prima colazione. Dopo di me ci sarà il DJ Ariele con Freak Anthony, pane, burro e rock and roll, e poi il Garavelli, e poi il resto della programmazione da Rock FM. Ma qui, al mattino, alle 6, c'è solo Chuck Bird. No, non c'è solo Chuck Bird, c'è anche Cherry. Però Cherry rimane un po' così, dietro le quinte. Prima o poi la costringeremo, riusciremo a convincerla e vi farà un bel saluto in diretta. Per il momento Simon & Garfunkel, and here's to you, Mrs. Robinson. Where no one ever goes. Yeah, no, yeah, no. Zeppelin, hey hey, what can I do? Il meglio, e solo il meglio per voi passerottini e passerottine qui all'Early Bird Special. Oh, a Chuck Bird piace raccontare dei concerti leggendari, eh? Quelli che, accidenti, avrei voluto esserci. Se ne avete voglia, vi potrei raccontare di quella volta che Mick Jones salì sul palco dei Mescaleros per suonare Bank Robber con il suo amico e un tempo co-leader The Clash, Joe Strummer. Saprete tutto dopo Jealous Guy di John Lennon. Guy. Ma non è di John Lennon che vi voglio parlare, ma di Mick Jones, Joe Strummer e i Clash. I Clash non si riformeranno mai. Non avevano la minima intenzione quando Joe Strummer, leader della band, insieme a Mick Jones era vivo e ora sicuramente ancora meno. e dire che nel 1999 i due vennero offerti 5 milioni di dollari per suonare una cinquantina di date. Joe commentò la cosa con una frase piuttosto significativa: il passato è come una stanza. Tu credi di poterci entrare ed uscire a tuo piacimento, ma non puoi. Il pavimento è troppo appiccicoso. Beh, durante l'ultimo show che i Mescaleros suonarono a Londra nell'autunno del 2002, successe una cosa incredibile. Mick Jones era tra il pubblico, accanto al regista Alex Cox, vecchio amico di entrambi. Mick non aveva assolutamente parlato con Joe di una possibile jam session quella sera. Il club però era uno di quelli vecchia scuola, come quelli che videro il debutto dei Clash alla fine degli anni 70. L'atmosfera surriscaldata da Joe era veramente caldissima. Quando Mick Jones sentì i primi accordi di Bank Robber, si voltò verso Alec Cox e gli disse semplicemente: «Tienimi il cappotto, vado sul palco». E i due suonarono di nuovo insieme, come ai tempi dei Clash. Purtroppo fu anche l'ultima volta che il pubblico li vide di nuovo suonare in un classico dei Clash, perché qualche settimana più tardi Joe Strummer moriva a causa di un malessere congenito al cuore. Era il 22 dicembre 2002. Joe Strummer aveva 50 anni. I favolosi Clash a concludere questa puntata di martedì dell'Early Bird Special, martedì 20 novembre. Il vecchio Chuck Bird ha terminato le sue cartucce, ha bevuto la sua ultima tazza di caffè nero bollente e a questo punto non può far altro che salutarvi e ringraziarmi naturalmente per l'ascolto. Vi lascio con i rimanenti programmi da Rock FM, ci risentiamo domani mattina alle 6. Aloha!